Capitolo 134. La dodicesima fatica, la cattura di Cerbero. L'ultima e più ardua fatica di Eracle fu catturare il cane Cerbero nel Tartaro. Per prepararsi a questa impresa, l'eroe si recò a Eleusi, dove chiese di essere iniziato ai misteri e si cinse il capo con la corona di mirto. Oggigiorno tutti i greci di buona reputazione possono essere iniziati a Eleusi, ma poiché ai tempi di Eracle vi erano ammessi soltanto gli ateniesi, Teseo propose che un certo Pilio lo adottasse. Pilio acconsentì, e quando Eracle fu purificato per il suo massacro dei centauri, perché nessuno con le mani sporche di sangue poteva essere ammesso ai misteri, fu iniziato dal figlio di Orfeo Museo, mentre Teseo gli faceva da padrino. Tuttavia Eumolpo, il fondatore dei grandi misteri, aveva decretato che nessuno straniero vi poteva essere ammesso e perciò gli Eleusini, restii a rifiutare la richiesta di Eracle e però dubitando che la sua adozione da parte di Pilio facesse di lui un vero ateniese, stabilirono in suo onore i piccoli misteri. Altri dicono che Demetra stessa onorò Eracle istituendo i piccoli misteri in quell'occasione. Ogni anno si svolgono due diversi misteri eleusini, i grandi in onore di Demetra e di Core e i piccoli in onore della sola Core. Questi piccoli misteri, una preparazione dei grandi, rievocano la sorte di Dioniso con una rappresentazione drammatica che si svolge ad Agra presso il fiume Iliso nel mese antesterione. I riti principali comportano il sacrificio di una scrofa che gli iniziati da prima lavano nel fiume Cantaro. In seguito sono purificati da un sacerdote che porta il nome di Idrano. Dovranno poi aspettare un anno prima di partecipare ai grandi misteri che si svolgono in Eleusi nel mese Boidromione e sono legati al silenzio da un solenne giuramento che fanno in presenza del mistagogo. Nell'attesa è loro negato l'accesso al santuario di Demetra e aspettano nel vestibolo mentre si svolgono le cerimonie solenni. Così purificato e preparato, Eracle discese al Tartaro da Tenaro in Laconia, o altri dicono dalla penisola a Cherusia presso Eraclea sul Mar Nero, dove si mostrano ancora a grande profondità tracce del suo passaggio. Fu guidato da Atena e da Ermete, ogni qualvolta infatti esausto per le fatiche sostenute, egli invocava disperatamente Zeus, Atena era subito al suo fianco, pronta a confortarlo. Terrificato dal cipiglio di Eracle, Caronte lo traghettò al di là del fiume Stige senza esitare. Per punirlo di questa sua disobbedienza, Ade in seguito lo incatenò per un anno intero. Appena Eracle fu sbarcato sulla riva opposta, tutte le ombre fuggirono, salvo Meleagro e la Gorgone Medusa. Alla vista di Medusa, Eracle estrasse la spada, ma Ermete lo rassicurò, dicendogli che si trattava soltanto di un fantasma. E quando incoccò una freccia per colpire Meleagro, che indossava una splendida armatura, Meleagro rise e disse «Tu non hai nulla da temere dai morti!» e conversarono amichevolmente per un po'. Infine si offrì di sposare la sorella di Meleagro, Deianira. Presso le porte del Tartaro, Eracle trovò i suoi amici Teseo e Pirito, legati a sedie di tortura, e strappò i lacci di Teseo, ma fu costretto a lasciare incatenato Pirito. Poi fece rotolare via il sasso che aveva imprigionato a Scalafo, e infine, per ringraziarsi le ombre con un dono di sangue, sgozzò un capo della mandria di Ade. Il mandriano Meneteo Menezio, figlio di Centonimo, lo sfidò a una gara di lotta, ma subito Eracle lo strinse alla vita e gli spezzò le costole. A quel punto Persefone, che era uscita dal suo palazzo e aveva salutato Eracle come un fratello, implorò che lasciasse in vita Menete. Quando Eracle chiese di Cerbero, Ade, ritto al fianco della moglie, replicò sogghignando: «Il cane è tuo se saprai domarlo senza usare la clava o le frecce». Eracle trovò il cane presso le porte della Cheronte e risolutamente lo afferrò per la gola, dalla quale sorgevano tre teste ricoperte di serpenti. La coda irta di Aculei scattò per colpire, ma Eracle, protetto dalla pelle di leone, non allentò la stretta finché Cerbero, mezzo soffocato, si arrese. Sulla via del ritorno, Eracle si intrecciò una corona con le fronde dell'albero che Ade aveva piantato presso i campi Elisi in ricordo della sua amante, la bellissima ninfa Leuca. Le foglie marginali di tale corona rimasero nere, perché questo è il colore dell'oltretomba, ma le foglie che aderivano alla fronte di Eracle furono tinte in bianco argento dal sudore dell'eroe. Ecco perché il pioppo bianco tremula gli è sacro. Il suo colore significa che Eracle ha compiuto le fatiche in ambedue i mondi. Con l'aiuto di Atena, Eracle attraversò il fiume Stige sano e salvo, e poi trascinò Cerbero su per l'orrido che si trova presso Trezerie, dove Dioniso aveva guidato sua madre Semele. Nel tempio di Artemide Salvatrice, costruito da Teseo all'imboccatura di quell'orrido, sorgono ora degli altari sacri alle divinità degli inferi. Pure a Trezene si vede ancora oggi, dinanzi all'antico palazzo di Ippolito, una fontana scoperta da Eracle. Secondo un'altra versione, Eracle trascinò Cerbero, legato con catene adamantine, lungo un sentiero sotterraneo che conduce alla cupa grotta di Acona, presso Mariandine, sul Mar Nero. Poiché Cerbero opponeva resistenza, abbagliato dalla luce solare, e abbaiava furiosamente con tutte e tre le bocche, la sua saliva volò sopra i verdi campi circostanti e fece nascere la velenosa pianta dell'aconito, detta anche Ecatea, perché Ecate fu la prima a usarla. Un'altra leggenda dice che Eracle ritornò sulla superficie terrestre attraverso Tenaro, il famoso tempio a forma di grotta dinanzi al quale sorge un simulacro di Posidone. Ma se davvero vi era una via che risaliva al tempio dall'oltretomba, fu in seguito bloccata. Infine, taluni dicono che Eracle emerse nel sacro recinto di Zeus Lafistio, sul monte Lafistio, dove si trova una statua di Eracle lungimirante. Tutti concordano tuttavia nell'affermare che, non appena Eracle ebbe condotto Cerbero a Micene, Euristeo, il quale stava celebrando un sacrificio, gli porse la porzione destinata agli schiavi, riservando le porzioni migliori della vittima per la sua gente. Eracle allora manifestò il suo giusto sdegno, uccidendo tre dei figli di Euristeo, Perimede, Euribio ed Euripilo. Oltre all'aconito, Eracle scoprì anche i seguenti semplici: l'Eraclea Panacea, ossia l'origano selvatico, l'Eraclea Sideria, con il suo stelo sottile e le foglie simili a quelle del coriandro che cresce presso i laghi e presso i fiumi ed è un eccellente rimedio per tutte le ferite d'arma da taglio, e lo yosciamo o imbane che provoca vertigini e pazzia. L'Eraclea Ninfea, che ha una radice a forma di clava, fu così chiamata in ricordo di una certa ninfa abbandonata da Eracle che morì di gelosia. Rende impotenti gli uomini per un periodo di 12 giorni. Questo mito pare sia stato dedotto da una scena raffigurante Eracle disceso al Tartaro e accolto da Ecate, dea della morte, che aveva assunto la forma di un mostro a tre teste. Forse ogni testa corrispondeva a una stagione, e che, grata per il dono delle mele d'oro, lo guidava verso i campi Elisi. Era Cerbero, dunque, che portava con sé Eracle e non viceversa. La versione che ci è giunta è la logica conseguenza della divinizzazione di Eracle. Un eroe doveva rimanere nell'oltretomba, ma un dio ne sarebbe fuggito portando con sé il suo carceriere. Inoltre, la divinizzazione di un eroe in una società che aveva un tempo venerato la dea, implica che il re aveva infranto un'antichissima tradizione rifiutandosi di morire per la dea stessa. Come conseguenza, il possesso del cane d'oro era prova della sovranità del gran re Acheo che si era liberato della tutela matriarcale. La presenza di Menete nel Tartaro e il furto compiuto da Eracle ai danni della mandria di Ade dimostrano che la decima fatica è un'altra versione della dodicesima, la discesa all'inferno. A giudicare dal corrispondente mito celtico, il padre di Menete, benché sia detto di proposito senza nome, era il dio ontano Bran o Foroneo o Crono, il che concorda col contesto della decima fatica. I grandi misteri eleusini erano di origine cretese e si svolgevano nel mese di Boedromione, che corre per aiuto, che in Creta era il primo mese dell'anno, corrispondente più o meno a settembre e così chiamato, secondo Plutarco, per commemorare la vittoria di Teseo sulle Amazzoni, e cioè la soppressione del sistema matriarcale. In origine i misteri che si svolgevano durante l'equinozio d'autunno erano forse la preparazione spirituale del re alla sua morte ormai vicina nel pieno inverno. Ecco il perché della premonitoria corona di mirto. Avevano forma di dramma sacro che prospettava al morituro ciò che lo attendeva nell'aldilà. Abolito il sacrificio del re, caratteristico del matriarcato, i misteri furono accessibili a chiunque venisse considerato degno dell'iniziazione. come in Egitto, dove il libro dei morti suggeriva un'analoga formula, ogni uomo di buona reputazione poteva diventare un Osiride, purificandosi e sottoponendosi a una finta morte. A Eleusi, Osiride era identificato con Dioniso. Le foglie del pioppo bianco erano il simbolo sumerico della rinascita e nel calendario arboreo il pioppo bianco corrispondeva all'equinozio d'autunno. I piccoli misteri, che divennero poi una preparazione dei grandi, pare fossero una cerimonia pelasgica indipendente, basata anch'essa sulla speranza della rinascita, ma che si svolgeva alla candelora di febbraio, quando sugli alberi spuntano le prime gemme, e questo è il significato di Antesterion. Ora, poiché Dioniso era identificato con Osiride, Semele doveva essere Iside. E noi sappiamo che non fu Osiride a riportare Iside dall'oltretomba, ma accadde anzi il contrario. Così la scena di Trezene mostrava senza dubbio Semele che guida Dioniso verso il mondo superiore. La dea che in modo analogo fa da guida a Eracle è ancora Iside, e la leggenda di Eracle che salva Alcesti fu probabilmente dedotta dalla medesima raffigurazione: l'eroe è guidato, non guida egli stesso. Il fatto che ritorni alla luce nel sacro recinto del monte Lafistio costituisce un'interessantissima variante. Non esistono caverne sulla sommità di quel monte, e il mito deve riferirsi certamente alla morte e alla resurrezione del re sacro che si celebrava lassù, un rito che contribuì al formarsi della leggenda del vello d'oro. L'aconito, veleno paralizzante, veniva usato dalle streghe tessaliche per manifatturare un unguento che secondo loro permetteva di volare. Intorpidiva infatti i piedi e le mani e dava la sensazione di essere sospesi sopra il suolo. Ma poiché era anche un febbrifugo, se ne attribuì la scoperta a Eracle, che aveva messo in fuga gli uccelli della febbre da stinfalo. La successione delle varie fatiche di Eracle varia secondo gli autori. Diodoro Siculo e Igino concordano con Apollodoro a proposito della dodicesima, ma ambedue pongono la quarta prima della terza e la sesta prima della quinta, e Diodoro pone la dodicesima prima dell'undicesima. Quasi tutti i mitografi ammettono che l'uccisione del leone Nemeo fu la prima fatica, ma nel passo di Igino, che elenca le 12 fatiche di Eracle stabilite da Euristeo, essa è preceduta dallo strangolamento di alcuni serpenti. In un certo punto Diodoro Siculo associa l'uccisione di Anteo e di Busiride con la decima fatica, in un altro con la undicesima. E mentre alcuni scrittori dicono che Eracle partì con gli Argonauti ancora giovinetto, altri situano questa sua avventura dopo la quarta fatica e altri ancora dopo l'ottava. Taluni poi sostengono che egli compì la nona e la dodicesima fatica e ruppe le corna di ambedue i tori prima di salpare con gli Argonauti. E altri negano addirittura che egli abbia partecipato alla spedizione, perché a quell'epoca serviva come schiavo la regina Onfale. Secondo gli scoli a Licofrone, Eracle fu iniziato ai misteri eleusini prima di intraprendere la nona fatica, ma Filocoro dice che Teseo lo iniziò ai misteri nel corso di quella fatica e fu poi salvato da Eracle nel Tartaro durante la dodicesima fatica. Secondo Pausania, Teseo aveva soltanto 7 anni quando Eracle giunse a Trezene con la pelle di leone indosso e liberò l'istmo dai malfattori che lo infestavano, mentre si dirigeva verso Atene all'epoca in cui Eracle serviva Onfale. Euripide pensava che Eracle avesse lottato contro Cicno, figlio di Are, prima di iniziare l'ottava fatica. Properzio che egli fosse già sceso al Tartaro quando uccise Caco, e Ovidio che Chirone morì per un incidente quando Eracle aveva già quasi portato a termine tutte le fatiche e non nel corso della quarta. Albrico elenca le seguenti 12 fatiche in quest'ordine, dando a ciascuna una spiegazione allegorica. Eracle sconfigge i centauri a un banchetto nuziale, uccide il leone, salva Alcesti nel Tartaro e incatena Cerbero, coglie le mele nel giardino delle Esperidi, uccide l'idra, lotta con Achelo, uccide Caco, si impadronisce delle cavalle di Diomede, sconfigge Anteo, cattura il cinghiale, ruba la mandria di Gerione, regge il cielo sulle spalle. Varie fatiche e altre imprese minori di Eracle erano illustrate sul trono di Apollo ad Amicle e nel bronzeo tempietto di Atena sull'acropoli di Sparta. Le sculture di Prassitere sul timpano del tempio di Eracle illustravano quasi tutte le 12 fatiche, Mancavano però gli uccelli stinfali e la lotta con Anteo sostituiva la pulitura delle stalle di Augia. Poiché molte città evidentemente desideravano essere associate con le fatiche di Eracle, ciò fa supporre che le successive prove nuziali, come preliminari dell'incoronazione, erano usanza diffusa in una vastissima area del mondo mediterraneo.